A bordo campo di Dario Ricci. Metri 8516 sul livello del mare. Beh, gli amici di A Bordo Campo lo sanno che a noi ogni tanto ci piace andare in Himalaya e salire su quegli 8000 che sono il tetto del mondo, ma il primo gradino verso il cielo. Mi piace leggerli così. Abbiamo seguito le imprese, i tentativi himalayani di Simone Moro qui a Radio 24. Proprio qui a Bordo Campo abbiamo raccontato l'assalto alla vetta del Nanga Parbat in inverno, che ha tentato Daniele Nardi lo scorso inverno, appunto, e sia Simone Moro che Daniele Nardi in questo inverno, ve lo preannuncio, stanno già scaldando i motori per ritentare quella sfida epica. E allora oggi ritorniamo su quelle cime himalayane, partendo da questa quota che in realtà è appunto quota 8516 metri, cioè la cima dell'Ozze. Ne parliamo oggi con il nostro ospite, il nostro amico. Benvenuto a Federico Colli. Benvenuto Federico. Ciao a tutti. Grazie di essere ospite di Radio 24 e di A Bordo Campo. Grazie a voi, saluto tutti gli ascoltatori di Radio 24. Allora, Federico Colli non l'abbiamo invitato perché è laureato in economia alla Bocconi di Milano, anche se poi a Radio 24 qualche domandina di economia poi te la faccio. Ahia, non so se sono preparato. Che tornano sempre utili. Ma invece t'abbiamo convocato qui a Bordo Campo perché? Perché da quella cima, da quella quota 8516, sei da poco tornato, perché ci sei voluto salire sull'Ozze e sei anche voluto scendere, ma in modo un po' particolare. Che cosa hai fatto? Raccontaci un po'. Sì, la nostra spedizione, di cui il capo spedizione era Edmond Joyeuse, che saluto, che è suo Courmayeur, dove anch'io. Tanto per non perdere l'abitudine, Edmond è rimasto su ad allenarsi, esatto. Però in spirito, in presenza, è qui in mezzo a noi. Esatto, ciao Ed, intanto ti saluto. E sì, la spedizione è partita il 1° settembre dall'Italia. L'obiettivo ambizioso era quello di arrivare in cima all'Ozze, la quarta cima più alta del mondo, tra il confine tra Nepal e Tibet, ed era il vero obiettivo era quello di scendere con gli sci, quindi fare questa prima mondiale di sci estremo. Ci avevano provato degli americani nel 2010 per la prima volta, ma hanno dovuto rinunciare. Premetto, prima di continuare col racconto, che anche noi abbiamo dovuto rinunciare, non arrivando alla cima. La causa è stato il meteo avverso. Ce l'hanno insegnato proprio anche i nostri amici alpinisti. È la montagna che, quando lanci queste sfide, detta le regole, decide l'esito, e suo fido alleato sono il cielo e le nuvole, no? Certo, e il vento, complice anche il vento. Che di solito a quelle altitudini può anche girare intorno ai 120, 140, sì, 200 anche all'ora, non è da escludere. Guarda, giusto per raccontare un aneddoto, verso i primi di ottobre addirittura il vento fortissimo mi ha strappato la tenda e siamo poi dovuti andare a recuperarla tra le rocce, e strappata via, era ben ancorata, ma con più di 100 km all'ora del vento ci ha portato via la tenda e me l'ha completamente strappata. Poi sono dovuto andare a dormire nella tenda briefing, quella dove tenevamo il materiale più delicato, quindi avevo fatto un upgrade di suite, diciamo. Ogni scusa era buona per... Sì, poi fossi stato dentro l'avrebbe portato via. Non lo so se tenda, rimanevo lì o... con quei venti. Esatto, da verificarsi. Senti, vabbè, già salire in quella cima, su quelle cime, è sfida per pochissimi, anche perché l'Ozze tecnicamente è abbastanza complesso. Ma mi spiegate a voi come viene in mente di riscendere con gli sci? Guarda, sia io che Ed cerchiamo di legare ogni salita in montagna poi a una discesa di sci estremo o una discesa con gli sci, essendo entrambi super appassionati di sci, colleghi maestri di sci, e volevamo fare qualcosa di diverso, diciamo. E forse, non so, parlo per me, mi sento quasi più a mio agio con gli sci che con le picozze. Per cui credo che se fossimo riusciti ad arrivare in cima, la parte in discesa non sarebbe stata più complicata della salita, davvero. Ah beh, sicuramente l'altra metà del cielo alpinistico è proprio la discesa, no? Noi comuni mortali, bipedi che ci muoviamo a livello del mare, spesso non ci pensiamo al fatto che l'alpinista forse i maggiori rischi spesso li corre proprio nel tornare verso quel campo base, che la tappa è veramente la meta finale più che la cima, no? Sì, certo, bisogna sempre contare che bisogna tenere le energie e la lucidità per tornare a casa. Noi l'avevamo detto prima di partire, l'obiettivo numero uno dell'Oz Ski Challenge era tornare a casa. Dopo tutto quello che avremmo messo di buono là in Himalaya, tra l'impresa sciistica e alpinistica, tutto riguadagnato, ma volevamo tornare assolutamente a casa, non siamo dei folli. Mi dicevi dell'arrampicata, dell'ascesa, no? Se ho ben capito, anche tu, come il nostro amico Daniele Nardi, sei un fautore dello stile alpino, cioè si sale con le sole proprie forze, by fair means, come quel Alfred Mummery, il grande inventore dello stile alpino, ha codificato, no? Sì, noi avevamo deciso di scalare in stile alpino, cioè senza l'uso di scale, di corde fisse o di ossigeno, per veramente riuscire a fare una scalata clean climbing, ma di impatto zero anche ecologico. Siamo riusciti a farla, a passare l'ice fall in stile alpino, ed era più di 20 anni che nessuno lo saliva in quel modo, perché oramai con le spedizioni commerciali, soprattutto americane, coreane, arrivano lì con tantissime scale d'alluminio, tantissime corde fisse, un esercito di sherpa, tantissime bombole d'ossigeno, e affrontano in questo modo la scalata. Noi siamo riusciti a passare, grazie anche alla grande esperienza di Edmond, tra questi crepacci senza fare uso di queste cose. Poi, per trovare degli sherpa che accettassero di aiutarci a caricare il materiale fino ai campi alti, abbiamo dovuto un po' sfruttare le scale dei coreani, ma l'abbiamo fatto veramente per gli sherpa, per essere più agili a salire avanti e indietro, che non c'è da dimenticare che nella nostra spedizione abbiamo avuto dei problemi, in quanto gli sherpa ci hanno abbandonato ben 2 volte lì da soli. Perché non siete tanto simpatici, no. Vabbè, sembri tanto un bravo ragazzo. No, diciamo che la realtà è che le agenzie di trekking e di spedizione, oramai organizzando tante cose commerciali, hanno abituato un gran numero di sherpa a scalare solamente con scale, non sanno usare i ramponi, non sanno usare le piccozze. Avanzano con queste maniglie, si chiamano Jumar, attaccate a delle corde fisse, e caricano grossi pesi, perché loro hanno l'abitudine a stare a 6-7 mila metri, quella che noi non abbiamo. Però non sono alpinisti, non sono capaci a scalare, e mi ricordo delle scene proprio in cui non sembravano veramente dei principianti, per cui ritenendo fosse troppo pericoloso per loro ci hanno abbandonato lì andando via. Eh sì, interessante questo punto che sottolinei, cioè manca quella perizia tecnica che invece l'alpinista professionista o comunque consapevole di quello che va a fare no? E quindi è anche questo un segnale di quelle montagne che stanno cambiando con i tempi, è anche questo un effetto del turismo d'alta quota, sì, no, certo. Federico? Sì, esatto, hai detto bene, proprio del turismo d'alta quota. In primavera so che c'erano più di 400 alpinisti al campo base, perché dell'Everest, perché è in comune con quello dell'Ozze, più di 200 sherpa, e quindi capisco che la quantità di persone su quel ghiacciaio, l'impatto di inquinamento che producono, tutte queste scale poi lasciate tra i crepacci, non è un bello spettacolo. Se il campo base è completamente pulito adesso, vi assicuro non c'è neanche una cartaccia per terra, perché si lasciano delle cauzioni al Ministero del Turismo per queste cose. All'interno dell'ice fall e sul ghiacciaio abbiamo trovato di tutto, corde, bombole dei fornelletti, pezzi di tende, scarponi, di tutto di più. Insomma, è anche un allarme che lanciamo da questi microfoni per la qualità di queste scalate e soprattutto il rispetto di questo che è un patrimonio dell'umanità tutta, no? Federico, mi dicevi stile alpino, vuol dire che avete mangiato poco, perché per salire leggeri il cibo pesa. Questo è il concetto per il chiave che c'ha l'alpinista in mente. Quindi come ce l'avete fatta, come vi siete organizzati da questo punto di vista? Ci vuole cibo energetico, ma soprattutto leggero, ma proprio certo, nel senso vero della parola. Sì, esatto. Mentre al campo base comunque eravamo ben riforniti di cibo, quando salivamo ai campi alti l'utilizzo era per lo più di integratori, quindi o di pasti liofilizzati o di barrette o di gel molto comodi da bere, anche perché lì è difficile, nonostante tutta la neve, riuscire ad avere acqua, perché su in alto bisogna mettersi lì, aver pazienza, far sciogliere la neve e il ghiaccio nel fornelletto e riuscire ad avere acqua. E far sciogliere anche il gas del fornelletto, che spesso ghiaccia, no? Esattamente, esatto. Ce ne vogliono spesso due di questi fornelletti, uno per il fornelletto che poi scioglie la sì, neve. Sì, noi addirittura lo tenevamo vicino ai sacchi a pelo mentre dormivamo, in modo da evitare questi problemi di ghiaccio del gas. Quindi insomma direi che però quello alimentare è un sentiero, un percorso che è ancora ai primi passi, no? Rispetto al grande sforzo che invece la storia dell'alpinismo ha fatto per portarvi in vetta. In realtà tanto dobbiamo ancora imparare da quel punto di vista, ci sono delle equip, degli specialisti di alto livello che ci lavorano e che lavorano anche con te, ma effettivamente i margini di crescita sono grandissimi da quel punto di vista. Sì, assolutamente, noi siamo stati seguiti dal punto di vista alimentare e sono stati veramente sempre molto disponibili l'equip dall'Italia e ci hanno fornito i prodotti adatti, ci hanno dato i giusti consigli su quando utilizzarli, quando usare bene le maltodestrine, quando magari quegli integratori per il recupero, eccetera. E un po' poi va anche a gusti, cioè magari a me piaceva di più una cosa, Edmund un'altra, o una volta arrivati giù eravamo da pane e salame, letteralmente. Sì, poi al campo base si trova anche un po' di prosciutto ogni tanto, scherzi, un po' di grana padano. Ci avevamo portati tutta la roba della Val d'Aosta. Senti, mi hai fatto venire anche un po' d'acquolina in bocca. Io il massimo che posso offrirti qua a Bordocampo, visto anche l'orario, è un caffè. Prendiamoci allora una breve pausa, le informazioni per chi viaggia, poi torniamo qui insieme a Bordocampo con Federico Colli per parlare di salita, montagna, ma anche discesa. A Bordocampo. Ancora insieme qui a Bordocampo, insieme con Federico Colli, direi alpinista estremo, va bene come definizione? Dai, diciamo sciatore estremo e alpinista, ecco, mi piace di più. Federico ce n'ha un bel po' di qualifiche, dalla laurea in economia alla Bocconi di Milano, alla passione per la montagna che l'ha portato a sfidare il Lhotse, uno dei grandi 8000 della Terra, per poi arrivare fino a un certo punto, adesso ci dici dove, e poi ridiscendere con gli sci, insomma, impresa non da poco, appunto la salita, fino a che punto siete arrivati? Sì, noi siamo arrivati, ci siamo impantanati tra il campo 1 e il campo 2, che tra l'altro è una parte che tecnicamente è molto facile, nel senso che usciti dall'ice fall in stile alpino era una parte, diciamo, lì nella Valle del Silenzio molto pianeggiante, ma il brutto tempo, spesso, la quantità di neve che ci arrivava quasi fino alla vita e sempre sopra il ginocchio, l'impossibilità di vedere esattamente dove incominciavano i crepacci e dove finivano ci ha impedito di proseguire e ci faceva venire rabbia, perché lì comunque era quasi piatto. Dicevamo, cavolo, prima di arrivare sotto il campo 3, che comunque è dove riparte un po' la grossa pendenza della montagna, li vedevamo lì e non riuscivamo a avanzare. Tra l'altro, sia sulla spalla dell'Everest, alla nostra sinistra, sia lungo i pendii del Nuptse, a nostra destra, continuavamo a vedere valanghe che partivano. C'erano veramente delle placche a vento incredibili create dalla quantità grossa di neve depositata e dal vento forte che aveva incominciato a soffiare da nord, e continuavamo a vedere partire valanghe. Quindi con Ed ci siamo detti, ma con queste condizioni andremo in montagna a sciare a Courmayeur, che è casa nostra, conosciamo ogni angolo, c'è il soccorso alpino più efficiente? No. E allora abbiamo detto, ma perché lo facciamo qui, che siamo in the middle of nowhere. Ma è molto bello, e l'abbiamo raccontato spesso a Bordocampo, ci siamo spesso soffermati sul momento in cui uno sportivo estremo, un alpinista, riesce a dire no alla vetta. Cosa ti ha lasciato quel momento? Perché ci vuole coraggio anche a dire no in quelle condizioni. Molti non ce l'hanno questo coraggio, rimangono prigionieri di quel sogno e spesso poi prigionieri di quei ghiacci. Guarda, noi avevamo detto che doveva la ragione prevalere sull'ambizione, nel senso che la montagna è lì, ma la nostra vita è più preziosa. E questo eravamo d'accordo fin dall'inizio ed eravamo d'accordo una volta arrivati lì. E è quasi più dura rinunciare che provare a far fatica e andare avanti, perché dopo mesi di allenamento, una dura ricerca degli sponsor, l'organizzazione di una spedizione di questo tipo, è veramente dura dire torniamo a casa. Poi avevamo il nostro blog, eravamo seguiti diciamo abbastanza a livello mediatico, per cui anche rinunciare sembra quasi di scappare alle prime difficoltà, però non è stato così. Davvero ci abbiamo provato fino all'ultimo, fino a quando era ragionevole provarci. Avevamo ancora qualche giorno di permesso sia per scalare che per poter sciare, ma avevamo chiamato dall'Italia e avevamo saputo che dava un meteo terribile con più di 2 metri di neve a 6.000 metri, per cui abbiamo detto vabbè, andiamo a casa. Però prima montiamo gli sci e scendiamoci. Esatto, quindi era il 10 ottobre mi pare e ho deciso di salire e, con la scusa di andare a smontare il campo 1, dove all'interno vi era tutte le tende, attrezzatura per poi montare anche gli altri campi, ed è stata la scusa buona per poter scendere l'ice fall con gli sci. Insomma, questa discesa, l'altro mi dicevi, hai fatto un figurone, insomma, è stata poi alla fine quella la vera impresa, no? Ma sì, nel senso che è stata comunque una seconda mondiale, dopo quella dello sloveno Davo Karnica, che è sceso nel 2000 dall'ice fall, e una prima italiana, per cui tutto sommato, nonostante non sia andata fino in fondo bene la nostra spedizione, qualche sassolino dalla scarpa ce lo siamo tolti sicuramente, sì. Qualche soddisfazione da quelle nevi è arrivata. A noi di A Bordo Campo ci piace anche investigare il viaggio, no? Nel senso che molto spesso l'alpinista vede solo la vetta, per noi è importante il modo, e abbiamo scoperto che anche tu sei un fautore dello stile alpino, e questo ci piace, perché veramente con le sole proprie forze affrontare questi giganti è davvero difficile. Ma soprattutto, ecco, sei riuscito a guardarti intorno, perché spesso l'obiettivo della cima fa chiudere gli occhi su tutto il mondo che c'è intorno, no? Sì, guarda, ne avevo parlato una volta in un lodge con Carlo, che era il videomaker che era con noi e che ci ha seguito fino al campo base. E mentre nel 2002, che ero stato a scalare il Merapic, che è una montagna di 6.500 metri circa lì vicino, ero più concentrato a performance. Proprio questa volta mi sono preso veramente del tempo per guardare, per ammirare questi paesaggi che sono unici, che sicuramente poi mi sarebbero mancati una volta arrivato in Italia, per osservare la gente, per ascoltare anche i miei compagni di spedizione, Edmond, Carlo, il videomaker, per sentire anche da loro le loro impressioni, le loro esperienze. Mi viene da dire, sono andato lì con la mente più aperta rispetto a 10 anni fa. Sono cresciuto io, qualcosa è cambiato in Nepal, però qualcosa è rimasto uguale. Beh, insomma, ragazzi, avete capito che con Federico Colli potremmo starci a parlare ore e ore, e quindi siamo, e cioè, grandissimo piacere, sono obbligato a rinvitarlo al più presto per raccontarci una prossima impresa. Però Federico, intanto possiamo seguirti sul tuo blog, dacci un po' qualche indirizzo, dai. Sì, allora, il blog si chiama lozeskichallenge.com. Molto ben fatto, LH, tra l'altro. Esatto, che c'è stato seguito da Meridiani Online, che sono dei nostri amici che lo hanno seguito, lo hanno fatto molto bene, tutti anche gli amici o le persone conoscenti a cui ho chiesto poi se era fatto bene era chiaro, tutti mi hanno detto di sì, quindi immagino sia fatto bene. Abbiamo messo confermo con tutte le spettacolari, foto spettacolari, esatto, che spero piacciono a tutti, alpinisti anche non, nel senso che sono belle foto indipendentemente. Poi qualcuna la mettiamo anche sul sito di Radio 24, non te ne tenere tutte per te. No, allora, no, no. lozzeskichallenge.com per avere tutte le informazioni sulle attività, le sfide, le avventure di Federico Colli. Federico, allora, grazie per essere stato oggi nostro ospite qui a Bordo Campo. Ti aspettiamo presto, sci ai piedi la prossima volta. Va bene, in studio, grazie mille. Allora vi aspetto io sulle piste su Courmayeur a sto punto. Benissimo, invito accolto. Invito ufficiale. Mi prenoto per il vin brûlé. Andata. Per a Bordo Campo di oggi è tutto, un grazie a Gianmarco Ferronato in regia. Vi ricordo che potete riascoltarci come sempre dal nostro sito www.radio24.it, scriverci alla mail a bordocampo@radio24.it e dialogare con noi attraverso il blog di A Bordo Campo. Tra poco GR24, poi tutti convocati weekend. A Bordo Campo torna come sempre domenica alle 16.30 e in replica il sabato mattina alle 6.15. Ancora una buona giornata da Dario Ricci. Sì.